24, i gialli della storia. Il racconto epico della crisi economica globale si allarga. Questi banchieri si stavano diffondendo in tutta Europa. Una crisi globale. Le banche d'affari come Goldman Sachs bramavano di concedere prestiti ai paesi a rischio, come la Grecia. Difficile credere che non si sia ipotizzato che i greci falsificassero i loro bilanci. Io credo che lo sapessero, anzi ne sono certo. E una cultura dell'avidità. È noto anche come banking da casino. Facevamo talmente tanti soldi. Erano arrivati come squali attirati dal sangue. Ho un affare da proporti. C'è qualcuno che controlla, che si preoccupa di questo fenomeno? Con la puntata di oggi chiudiamo la serie dedicata alla crisi finanziaria del 2008. Una crisi nata da un uso sproporzionato e spesso immorale degli strumenti finanziari. Sul banco degli imputati sono le banche, le assicurazioni e i loro operatori. Nella puntata di oggi a Mix24 racconteremo come la crisi abbia finito per coinvolgere l'Europa e in particolare l'Italia, la Grecia, l'Irlanda, il Portogallo e la Spagna, che avevano un'economia più fragile. In questo racconto ascolteremo la voce di molti analisti finanziari che hanno vissuto quel momento in prima persona, che hanno deciso a un certo punto di abbandonare quel mondo di squali e di combattere per la legalità. E poi l'economista Simon Johnson e i giornalisti John Cassidy, Bernard Wright, Gillian Tett e Nick Malkovich. Ogni anno a dicembre i banchieri verificano se gli investimenti fatti nel corso dell'anno sono stati redditizi. Anche a Wall Street è Natale. Per le banche il 2011 è stato un anno disastroso. Le loro azioni hanno registrato una caduta vertiginosa. Nel 2011 però le banche newyorkesi hanno accantonato 20 miliardi di dollari in bonus. Nonostante il crollo del 2008, le banche hanno dovuto distribuire bonus per più di 80 miliardi di dollari. Se a Washington i politici sono al lavoro su nuove leggi, nulla è realmente cambiato nella cultura di Wall Street. Secondo alcuni, è una cultura che sta semplicemente attraversando una fase di disorientamento. Non credo di esagerare se dico che Wall Street ha in un certo senso perso la ragione. Secondo John Fullerton, un ex banchiere, tutto ha avuto inizio quando le banche hanno cominciato a fare trading per conto proprio anziché per conto dei clienti. È stato l'aumento del trading che ha modificato la cultura bancaria. Si è creata una nuova mentalità competitiva che genera profitti a breve termine. Si è affermata questa sorta di culto del crescere, crescere, crescere, di più, sempre di più. Quella della Wall Street di oggi è una cultura malsana. Per quanto mi riguarda personalmente, io ho cominciato a essere sempre meno soddisfatto del mio lavoro e di quello che facevo ogni giorno. Sentivo che stavo cominciando a cambiare i miei valori, a perdere il rispetto e la stima di me stesso. Non ho mai dato molta importanza al denaro in quanto tale. Non ho realmente ambito a diventare ricca. Sapevo che la gente con cui lavoravo mirava ad arricchirsi, ma la cosa non mi disturbava più di tanto. Anzi, mi sembrava il classico sogno americano. Cathy O'Neill, una matematica, è arrivata a Wall Street nel 2007 lasciandosi alle spalle la carriera accademica. Ho frequentato l'università di Berkeley, poi sono andata ad Harvard per il dottorato e per finire ne ho fatto un altro di 5 anni all'MIT. Dopodiché ho fatto domanda allo Shaw Group per lavorare negli hedge fund e ho ottenuto il posto, ero entusiasta. Ero analista quantitativa, attraverso metodi statistici dovevo prevedere l'andamento dei mercati. Il lavoro di Cathy O'Neill consisteva nel prevedere quando comprare o vendere cospicui fondi pensione, permettendo così alle aziende bancarie di arrivare prima dei loro clienti. Sentivo che stavo facendo qualcosa di immorale. Mi stavo approfittando di gente che non conoscevo, gente le cui pensioni erano finite in quei fondi. Noi tutti mettiamo soldi nei piani di investimento pensionistici. Poi Wall Street prende quei soldi e ogni quadrimestre trattiene per sé una certa percentuale di quei fondi. Alla fine del periodo lavorativo, le persone che hanno versato il denaro vanno in pensione, ma la somma che rimane loro è solo una parte dei contributi che hanno versato. In pratica, pur appartenendo a una certa persona, quel denaro finisce a Wall Street. Non mi sembra giusto. Tutti sentono che c'è qualcosa che non funziona, ma quando cominci a fare i soldi, non puoi fare a meno di continuare. Caitlin Klein è arrivata a Wall Street nel 2004. Nei suoi ricordi è stata un'esperienza molto invitante. La prima estate l'ho passata impegnata in lezioni di golf, corsi di negoziazione e degustazioni di vini. Tutte cose che aiutano a muoversi bene nel mondo degli affari. La Klein si è laureata in matematica all'Università di New York. Voleva dedicarsi all'insegnamento. E invece è rimasta a Wall Street per 6 anni. A un certo punto ti viene il vago sospetto che non stai dando un contributo benefico alla società, ma poi ci sono le facili scusanti, ti dici: io conosco i rischi, loro conoscono i rischi, questo non è il nostro denaro, e quindi perché non fare queste cose? In fondo il gioco è corretto. Non sapevo di fare qualcosa di dannoso, mi limitavo a pensare di non fare qualcosa di necessariamente positivo. Alexis Goldstein, laureata in informatica presso la Columbia University, ha progettato software per il trading per Deutsche Bank e Merrill Lynch. Ci sono incentivi che spingono a produrre quanto più denaro possibile per l'azienda. E in un certo senso credo che il pensiero di ogni trader sia: quest'anno ho fatto guadagnare all'azienda $1 miliardo. Penso di essermi meritato anch'io una percentuale su quel guadagno. Ciò che ritengo scorretto riguarda il tipo di comportamento incentivato. Mi gioco il tutto per tutto, faccio più denaro possibile. E se poi fra 3 anni la bolla speculativa si sgonfia, non comprometterà certo i bonus che mi guadagno adesso. Gli incentivi sono cospicui. Un giovane trader che opera per una grossa banca di Wall Street può arrivare a percepire fino a circa $150,000 l'anno. Ma a seconda del suo rendimento, quella cifra può aumentare rapidamente. Per gli star trader, cioè i venditori più bravi, si parla anche di milioni. Quanto guadagna un trader affermato? Uno star trader dopo 10 anni di attività può arrivare a prendere 5 o anche 10 milioni di dollari. Parliamo ovviamente di livelli molto superiori alla media. 10 milioni di dollari l'anno. Lei quanto guadagnava come trader? Credo di essere stato uno star performer, quindi probabilmente seguivo la curva degli onorari degli star performer. Quindi tra i 5 e i 10 milioni di dollari? Sì, penso di sì. Ma è un segreto? Effettivamente era un segreto. I compensi non erano di dominio pubblico, per ovvie ragioni. Preferirei non dirlo, se lei è d'accordo. Perché non so se si tratta di un'informazione che possa essere resa pubblica. Comunque, si tratta di somme molto superiori a quelle di un primo impiego. Io non dovrei parlarne perché fa parte delle clausole contrattuali. Non sono autorizzata a parlare dei nostri salari o bonus né di altre questioni simili. Ma si trattava di grosse somme di denaro, specialmente per gente giovane come me. Non è sempre stato così. Un tempo i banchieri percepivano salari analoghi a quelli degli avvocati, medici e ingegneri. L'ultima volta che Wall Street ha visto compensi straordinari è stato nel periodo precedente al crollo del 1929. Gli anni 20 furono anni di frenesia finanziaria che portarono a un boom straordinario del mercato azionario. Fu l'inizio di operazioni bancarie innovative ad alto rischio. Negli anni 20 non è inconsueto che i banchieri si portino a casa assegni paga che, adeguati al tasso di inflazione, risulterebbero pressoché alla stregua di quelli guadagnati dai banchieri di oggi. Ma all'epoca quella situazione non durò a lungo. Negli anni 30 ebbe inizio un periodo di riforme che, attraverso una serie di regole, pose dei limiti all'attività delle banche. Molte banche furono così costrette a svolgere un'attività che potremmo definire annacquata: prendere denaro in deposito e darlo sotto forma di prestiti. Un'attività comunque redditizia, non mi fraintenda, ma poco stimolante. Era un lavoro aperto e leale che ti metteva a contatto con la comunità, anche perché dovevi intuire chi tra quanti chiedevano un prestito sarebbero stati dei buoni pagatori. È la storia delle banche americane. Quando cominciai a lavorare in banca, la mia era una professione analoga a quella di un dirigente di una società elettrica o di altre società di servizio pubblico. Le banche fornivano dei servizi essenziali. In passato, Wall Street e la finanza servivano a finanziare opere pubbliche, come linee ferroviarie o sistemi di collegamento interstatali, tutte cose che hanno bisogno di finanziamenti per essere realizzate. Ed è di questo che dovrebbe occuparsi la finanza. Ciò che ha completamente stravolto il senso reale della finanza è che gli operatori di settore hanno cominciato a produrre denaro solo per se stessi. Sì, ogni tanto capita ancora che finanzino qualcosa, ma certamente non è più il loro core business. È con molto piacere che vi presento il presidente degli Stati Uniti, William Jefferson Clinton. I cambiamenti hanno inizio alla fine degli anni 90 con l'abolizione delle riforme imposte negli anni della depressione. La legge Glass-Steagall non è più adeguata. Le tradizionali banche commerciali possono fondersi con le banche di investimento più orientate verso il trading. L'attività di trading e i profitti bancari segnano una rapida impennata. L'attività di trading diventò preponderante, 3, 4, 5 volte maggiore dell'attività bancaria tradizionale. Crebbe anche quest'ultima, ma senza arrivare ai picchi delle attività speculative. Questo fu l'inizio del fenomeno della fuga di cervelli, quando cioè Wall Street si mise alla ricerca di gente con una buona preparazione tecnico-scientifica. Pagheremo il doppio, il triplo, il quintuplo di quanto potresti guadagnare in qualsiasi altro settore. E se cerchi questi incentivi e sei un tecnico, perché mai non dovresti guadagnare 3 volte di più? E così arrivano in molti, e molti di loro finiscono per lavorare nel campo del cosiddetto proprietary trading, vale a dire investimenti fatti dalla banca a proprio favore, un aspetto che a molti banchieri non crea alcun problema. Avevo l'impressione che il più delle volte non stessimo lavorando nell'interesse dei clienti, ma solo nel nostro interesse. La cosa non mi piaceva. Claudio Costamagna è stato il responsabile per l'Europa degli investimenti della Goldman Sachs. Tutti facevano i soldi, tutti erano pronti a partecipare. È una sorta di, come dire, è la natura umana. Se vedi il tuo vicino fare soldi a palate in una certa attività, ti ci butti anche tu, anche se non ci capisci niente. Ma cosa intende esattamente per una certa attività? Attività legate alla vendita di derivati, al proprietary trading e così via. I derivati. È dai derivati che le banche d'affari traggono i maggiori profitti. I derivati possono essere molte cose, ma prevalentemente sono contratti o scommesse, il cui valore deriva dalla performance di qualcos'altro. Tassi di interesse, bond, azioni, prestiti, valute, prodotti, virtualmente qualsiasi cosa. Per un trader i derivati sono un prodotto perfetto. Il derivato è un qualcosa che può essere creato, messo insieme nella piazza di scambio e venduto il giorno dopo, è così? Esatto. La maggior parte dei derivati non bisogna cercarli per venderli, basta saperli creare. E sono anche molto redditizi. Probabilmente i 2/3 dei profitti derivanti dall'attività di trading sono associati direttamente o indirettamente ai derivati. Quindi non è un'esagerazione dire che il trading dei derivati è stato la linfa vitale delle banche. Credo che sia corretto. Senta, comprerò 10 milioni di quelle cose a 6 punti e 3 ottavi e ora le mostro i 10 milioni. Con la storia della crisi economica globale che si è vissuta nel 2008 e che è partita dagli Stati Uniti, ripartiamo dopo la viabilità. Mix 24, i gialli della storia. Bentornati all'ascolto di Mix 24. Stiamo raccontando come la crisi economica ha finito col coinvolgere anche l'Europa e lo facciamo spiegando gli strumenti finanziari che l'hanno permessa anche grazie al cinismo di banche e di assicurazione e nelle quasi totale assenza di strumenti di controllo che dovevano essere predisposti dalla politica. Il problema dei derivati è che possono essere molto pericolosi per chi non sia pratico della materia. I derivati implicano spesso scommesse con livelli di rischio molto elevati. Anche una minima variazione delle condizioni del mercato può significare grosse perdite, senza contare che i trader sono incentivati a concludere l'affare anche a costo di danneggiare il cliente. C'era una frase che suonava all'incirca come spellare vivo qualcuno. Era usata spesso in borsa, quando avevi venduto a dei clienti qualcosa che loro non avevano capito e tu eri riuscito ad ottenere un compenso ragguardevole, proprio perché loro non avevano capito. Concettualmente la cosa era ritenuta corretta perché tutti noi stavamo facendo il nostro lavoro, vale a dire fare denaro per la banca. Questa sorta di antagonismo nei confronti dei clienti ha caratterizzato in modo significativo la nuova cultura di Wall Street. E per massimizzare i profitti, le banche decidono di fare affari laddove le regole bancarie sono meno vincolanti. Nel programma di questa settimana incontreremo alcuni di coloro che sono considerati i nuovi re del capitalismo. All'inizio degli anni 90, molte banche americane preferiscono Londra a New York. Sono due i grandi mercati finanziari che si contendono il primato a livello mondiale: New York con Wall Street e Londra con la City. Molte delle attività a più alto rischio si svolgevano a Londra e quindi al di fuori della portata dei legislatori americani. Centinaia di giovani banchieri di Wall Street si trasferiscono a Londra per continuare la loro carriera nel trading dei derivati. In quegli anni di boom economico, i banchieri di Londra e di New York diventano i personaggi più ammirati della città. In quegli anni sono loro, i banchieri, le vere rockstar di Londra. Uomini ben pagati, uomini da 10-15 milioni di dollari l'anno. Li vedevi girare per la città con abiti e camicie costose e frequentare i locali dei VIP, dove una bottiglia di vodka costava 500 sterline. E poi c'erano tutte quelle ragazze in minigonna che entravano e uscivano dalle loro stanze d'albergo, approfittando della possibilità di spassarsela con dei giovani che erano riusciti a mettere insieme una fortuna. Vivevi e respiravi per l'azienda. Gli orari di lavoro erano folli, ma nessuno ne faceva un problema. Facevamo talmente tanti soldi che ci sentivamo quasi in debito con la banca. Desiree Fixler, laureata alla London School of Economics, vendeva derivati per Deutsche Bank e per JP Morgan. Per quanto mi riguarda, non mi sembrava così tremendo lavorare per una banca. Intendo dire che molti di noi hanno veramente l'azienda nel sangue. La Fixler ha fatto parte di un piccolo esercito di banchieri che ha spinto i derivati sui mercati europei. In borsa erano conosciuti come i muli dell'F9. Lei era un mulo dell'F9? Una parte di me era un mulo dell'F9, mentre l'altra parte avrebbe voluto essere fuori, in strada, a fare marketing. Che cos'era un mulo dell'F9? Soltanto qualcuno che sa dare un prezzo a tutte queste strutture. Quelle che sono sul computer? Esattamente. Bastava immettere alcuni dati, premere il tasto F9 e il programma stabiliva il prezzo dello strumento e anche la nostra copertura. E a chi li vendevate? Ai fondi di investimento, ai fondi pensione, alle compagnie di assicurazioni e ogni tipo di banca. Il prodotto si prestava a usi molto diversi e quindi è cresciuto facilmente. Dopo aver calcolato il prezzo dei derivati, squadre di banchieri d'affari battono la strada. Li chiamano banchieri d'affari, ma di fatto sono solo dei venditori. Infatti vendono i prodotti creati dalle banche, esattamente come accade per le grandi case farmaceutiche che mandano i loro venditori a piazzare l'ultima versione del farmaco del momento, qualunque esso sia. Questi banchieri si stavano diffondendo in tutta Europa, in cerca di quei clienti che avrebbero accolto con grande interesse i loro prodotti. Siamo in presenza di quello che potremmo definire una forma di arbitrato della governance, dove i banchieri trovano il tipo di cliente che non capisce il prodotto, per vendere il prodotto che il cliente non dovrebbe comprare. Quanti affari di questo tipo avete fatto? Non lo so, sono tutte trattative confidenziali. Se ne sente parlare solo quando vanno male. Le banche vendono i loro prodotti anche in America. Ad esempio a Birmingham, in Alabama, sede della contea di Jefferson. Si sono avventati su di noi come squali sulla preda e hanno approfittato della situazione in cui ci trovavamo per fare molto denaro. La contea di Jefferson ha un problema. Nel 1996 la contea ha dovuto sborsare ben 2 miliardi di dollari per la realizzazione di un sistema fognario a norma. Da allora i cittadini si ritrovano con delle fognature incompiute e bollette salate. Se prima pagavo una bolletta di $30, adesso ne pago una di 90. La maggior parte della gente che abita nel vicinato ha un reddito fisso. E quindi per loro anche $70 al mese per l'acqua e le fognature, che fanno $700 l'anno, sono una cifra troppo alta rispetto alle loro entrate. Nel 2002 la Contea cerca di rifinanziare il suo debito emettendo altri 3 miliardi di bond. Il finanziamento del sistema fognario della Contea di Jefferson con un prestito di $3 miliardi da restituire in 2 o 3 anni. Un grosso finanziamento per l'epoca, ma sarebbe un grosso finanziamento anche oggi. Sono numeri che attirano l'attenzione di Wall Street. Il banchiere che offre il suo aiuto è Charles LeCroy. Era il primo produttore di J.P. Morgan. A quanto si diceva, sembrerebbe che il suo sia stato per molti anni il centro di maggior profitto di J.P. Morgan. In quel momento LeCroy spingeva nuovi prodotti finanziari non solo nella Contea di Jefferson, ma in tutto il paese. Uno dei prodotti che LeCroy sta abilmente proponendo alla Contea di Jefferson è un interest rate swap. LeCroy si presentava dicendo: ho da proporle un affare. Abbiamo un nuovo prodotto, si chiama swap. E noi sappiamo come usarlo per ammortizzare il vostro debito senza che dobbiate aumentare le imposte ai cittadini. Alla fine del 2002, Larry Lankford, un ex reporter televisivo locale passato alla politica, riceve l'incarico di occuparsi delle finanze della contea. Credo che i banchieri di New York abbiano faticato per non scoppiare a ridere, quando hanno capito che Larry Lankford, che sedeva davanti a loro, non aveva alcuna idea di cosa fossero gli swap o le auction rate securities. Insomma, alcuna idea del mercato finanziario. Lankford decide di consultare un amico, Bill Blount, consulente finanziario di Birmingham. Blount legge la proposta e dice: è un buon affare, Larry. Si scambia il debito e tu non dovrai aumentare le bollette dei cittadini. È tutto a posto. Procedi. E non lo fecero solo una volta, lo fecero varie volte, passando da uno swap variabile a uno fisso e poi di nuovo a uno variabile. Come sta andando il mercato? Se sale facciamo questo, se scende prendiamo quest'altro. Insomma, di fatto era un commodity trading. Stavano scommettendo contro il mercato. Ma quello che la contea non ha considerato è l'improvviso e drastico cambiamento dei mercati. Nel 2008 comincia ad andare tutto tremendamente male. Questo è il giorno che abbiamo sempre temuto di trovare svegliato gli istituti finanziari sono nei guai. La Lehman Brothers ha dichiarato bancarotta. La prima crisi finanziaria dei nostri tempi e forse la fine di un'era per l'economia americana. Nell'autunno 2008, quando la musica si fermò e si contarono le poltrone, ci si accorse che ne mancavano molte. La contea di Jefferson si trova improvvisamente con un debito di centinaia di milioni di dollari nei confronti dei suoi creditori, tra cui anche J.P. Morgan. Quando i derivati e i tassi variabili salirono alle stelle, capimmo che non avremmo potuto sostenere il debito che si andava accumulando. E tuttavia continuammo a ignorare la situazione fallimentare in cui versavamo, proprio come un alcolista che rifiuti di ammettere di essere un alcolista. E come se non bastasse, si scopre che LeCroy ha pagato delle tangenti a Bill Blount, l'amico di Lankford. Secondo la Procura federale, il denaro è stato usato per il pagamento di tangenti. J.P. Morgan avrebbe pagato 3 milioni di dollari a Blount, che a sua volta avrebbe dato soldi e regali e vari a Lankford. Non posso affermare che alla J.P. Morgan fossero soliti dare tangenti, ma di sicuro non hanno pagato tangenti a Larry. La J.P. Morgan ha invece elargito alcuni favori a Bill Blount. Si tratta di corruzione, di intimidazione, è giusto, è sbagliato? Dipende dalle situazioni, ma in questo caso si può presumere la corruzione. Nel 2010 Lankford è giudicato colpevole dei reati di corruzione e frode. Attualmente sta scontando una condanna a 15 anni di detenzione. L'amico di Lankford, Bill Blount, avendo collaborato con le autorità, è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di detenzione. J.P. Morgan ha concordato con la Commissione Americana del Controllo della Borsa, la SEC, una sanzione di $25 milioni, oltre alla cancellazione del debito della contea di Jefferson per un totale di quasi $700 milioni. Con la storia della crisi di Wall Street riprendiamo dopo la pubblicità. Il segnale orario vi è offerto da Assicom. Vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. Mix 24, i gialli della storia. Siete ancora all'ascolto di Mix 24, dove stiamo raccontando come la crisi economica del 2008 abbia finito per coinvolgere anche l'Europa e come alcuni analisti finanziari abbiano finito per abbandonare Wall Street per poi combatterla insieme al gruppo di cittadini di Occupy Wall Street. A Wall Street il business dei derivati viene chiamato anche solution business. E in effetti i trader sono continuamente in cerca di problemi da risolvere. I professionisti che si occupano della vendita di derivati, i trader, tendono a focalizzare la loro attenzione su problemi di grande entità. Perché generalmente maggiori sono i problemi, maggiori sono le possibilità di fare affari. E la maggior parte dei grandi problemi e delle grandi opportunità è concentrata in Europa, dove negli anni 90 i vari paesi competono per entrare nel club europeo. Fu subito evidente che la questione di chi dovesse entrare in Europa e chi no dipendeva fondamentalmente da dati statistici. Un po' come accade con i test psicoattitudinali per l'accesso all'università. Le modalità di calcolo di questi dati erano top secret. E come spesso accade nella finanza, i banchieri individuarono un'area apparentemente noiosa ma geniale. Un'area molto importante, che nessuno aveva capito e di cui i politici non si erano mai occupati e subito pensarono: ah, qui ci sono possibilità di arbitraggio. L'arbitraggio normativo suona come un termine quasi esoterico, ma in pratica significa solo trovare il modo di aggirare la legge. Il nostro lavoro consisteva nel trovare una soluzione legale che permettesse la vendita dei prodotti derivati. E quindi più arbitraggi normativi riuscivamo ad organizzare, più ne superavamo, più ci pagavano. Quindi violavate lo spirito della legge? Assolutamente sì. E delle regole? Certo. Era quello il gioco. Esattamente. Le banche piombano sui capitali europei offrendo soluzioni a base di derivati. Derivati, un gioco, una sorta di formula magica che avrebbe permesso di correggere gli squilibri macroeconomici esistenti tra i vari paesi attraverso la speculazione. Erano diventati quasi un qualcosa da dover fare o comunque da tentare di fare. I governi ricorrono a vari sotterfugi. I francesi alteravano i bilanci con la rivalutazione dei fondi pensionistici, i tedeschi li falsificavano con transazioni in oro da investimento. All'epoca quasi tutti i paesi europei truccavano i propri bilanci. Il primo caso noto di uso di derivati per correzione di bilancio viene alla luce in Italia, in particolare a Roma, dove alcuni funzionari si trovano in grande difficoltà. In Italia si temeva che se non fossimo riusciti a entrare in Europa saremmo stati agganciati al Nord Africa e quindi non c'erano molte alternative né possibilità di scelta sul da farsi. I funzionari italiani si rivolgono alla JP Morgan per un aiuto. La banca invia il responsabile della vendita dei derivati in Italia, Bertrand Depardieu. Lei è andata a Roma e li ha aiutati nella scelta di un contratto derivato. È riuscito realmente ad abbassare il loro deficit? Cosa, la transazione? Sì. Se è riuscito a far abbassare il deficit, probabilmente sì, quella transazione ha fatto abbassare il deficit, decisamente. Ma per quanto mi riguarda, preferirei non entrare troppo nello specifico di quella transazione, perché ho dei doveri verso i miei clienti, come verso i miei impiegati. Non tutti i dettagli sono noti. L'Italia e la JP Morgan hanno sottoscritto un contratto di currency swap, un derivato comunemente molto usato. Ma nel caso specifico quel derivato presentava una maggiore complessità per la presenza al suo interno di un prestito. La transazione tra la JP Morgan e l'Italia fu fatta sotto forma di contratto derivato, anziché come un prestito tradizionale. Il prestito non fu riportato nelle relazioni finanziarie, per non allarmare gli altri paesi dell'Eurozona, inducendoli a pensare che l'Italia avesse corretto i suoi bilanci molto più di quanto non avesse realmente fatto. Nel 1999 l'Italia viene ammessa nell'Eurozona. L'Italia dichiara che il ricorso all'uso di derivati non aveva compromesso la sua ammissione all'Eurozona, ma nessuno conosce esattamente la quantità dei contratti derivati che venne sottoscritta all'epoca. JP Morgan rifiuta di rilasciare dichiarazioni nel merito, ma Depailler afferma che la banca non ha fatto nulla per frodare la legge sul bilancio. L'affare con l'Italia non ha cambiato la percezione di quel paese in Europa? Assolutamente no. And furthermore, every transaction... E per di più, ogni transazione da noi fatta in Europa non è stata mai nascosta agli altri partner europei. Depailler insiste nel dire che tutte le transazioni fatte da JP Morgan sono state lecite, ma che lui non può garantire per le altre banche. Nel 2003, tuttavia, Nick Dunbar pubblica su Risk Magazine una storia che svela il retroscena di una transazione segreta tra Goldman Sachs e la Grecia. Secondo l'articolo, Goldman Sachs avrebbe fatto sottoscrivere alla Grecia numerosi e consistenti contratti di interest rate swap. Che reazione ha suscitato questa rivelazione? Un assoluto silenzio. Io credo di aver fatto una sola partecipazione radiofonica e poi la storia è stata sepolta. Non è accaduto nulla. Il silenzio è sorprendente. Si tratta del più cospicuo derivato sovrano mai sottoscritto di cui si abbia notizia. L'accordo abbatte il debito della Grecia di circa il 2%. Si ignora l'esistenza di altri eventuali accordi. Si trattava di un prestito segreto fuori bilancio, legale rispetto alle regole del momento, come direbbe Goldman Sachs, ma si trattava comunque di un prestito fuori bilancio, una forma di prestito molto costosa per la Grecia. Secondo la Goldman Sachs, la Grecia ha finito per pagare qualcosa come il 16% annuo, un prodotto finanziario quindi molto simile ai mutui subprime, ma con tasso di interesse folle per qualcuno che ha un bisogno disperato di prendere denaro in prestito. Quanto ha fruttato a Goldman questo affare? Credo si possa affermare che Goldman abbia guadagnato centinaia di milioni di dollari da questa transazione. Quando esce la notizia, Desiree Fixler lavora per JP Morgan. Quando venne pubblicata la storia raccontata da Nick Dunbar, quali furono le reazioni all'interno della banca? Nessuno ha gridato allo scandalo. Scandal. My goodness, I can't believe. Mio Dio, non posso credere che Goldman Sachs si sia spinta al punto da violare lo spirito della legge. La reazione invece è stata: andate subito ad Atene a vedere se c'è ancora qualcosa da fare. Avete perso un'occasione d'oro. Insomma, la maggior parte delle banche sperava di ripetere l'affare della Goldman Sachs. Mi creda, è assolutamente falso. Io ero il responsabile all'epoca e conoscevo molto bene la questione. Una posizione del genere non avrebbe avuto senso. Per la Grecia, la transazione conclusa con Goldman Sachs è stata nascosta ai partner europei e a molti altri, anche perché i margini erano inconsistenti. Perché la falsificazione del bilancio era eccessiva? Esattamente. E quindi avete lasciato una buona parte dei bonus sul tavolo? Certo, parlare di una transazione di svariate centinaia di milioni implica che alcune persone che partecipano alla trattativa rinunciano a una considerevole fetta del loro denaro. È esattamente così. Con il bilancio così truccato, la Grecia sembra aver risolto tutti i suoi problemi e negli anni successivi continua a spendere in maniera molto disinvolta. Forse troppo. Il credito era facile e le banche d'affari come Goldman Sachs bramavano di concedere prestiti a paesi a rischio come la Grecia. E rassicuravano anche i clienti. Ma no, i rischi non sono poi così grandi. Le banche consideravano la Grecia sicura quasi quanto la Germania e quindi la Grecia poteva prendere prestiti agli stessi tassi di interesse della Germania, che erano piuttosto bassi. C'era una bolla, o per meglio dire una bolla consumistica. In tutto questo le banche agivano da intermediari e così ci siamo trovati di fronte a una lievitazione delle spese superiore ai nostri mezzi. Citizens of the world, welcome to Athens! I giochi olimpici avevano dato un nuovo slancio alla Grecia. Sul paese aleggiava un'euforia che sconfinava quasi nella irresponsabilità. Nessuno pensava al fatto che il denaro di cui disponevamo era stato preso in prestito e che quindi era molto costoso e che tra l'altro avremmo dovuto restituirlo. Come avremmo fatto? La Grecia è un paese piccolo con un'economia limitata e privo di progettualità. Insomma, una miscela disastrosa. Tra il 2001 e il 2008 il debito della Grecia si raddoppia. Ma nessuno ha intenzione, almeno in apparenza, di porre domande imbarazzanti. neanche Eurostat, l'organo di controllo europeo. Difficile credere che in un'epoca in cui possiamo calcolare con estrema precisione quante centrifughe stiano lavorando adesso all'arricchimento del plutonio e dell'uranio in Iran, non si sia ipotizzato che i greci falsificassero i loro bilanci con transazioni di valuta con Goldman Sachs. Io credo che lo sapessero, anzi ne sono certo, solo che non se ne sono preoccupati. Come fa a dirlo? Perché ho parlato con loro, lo sapevano. I greci erano costantemente in contatto con Eurostat, magari facevano qualche giochetto sottobanco, ma Eurostat sapeva le cose che contavano. La vorrei mettere giù con un certo cinismo. Per svariati anni, i governi greci hanno fatto credere che le loro finanze pubbliche fossero in ordine. E i loro partner europei hanno fatto finta di crederci. La resa dei conti arriva nel 2009. Il neoeletto governo di Papandreou dichiara di non avere idea di quale sia la reale portata del debito pubblico, né di quali trucchi siano stati usati per nasconderlo. Il ministro delle finanze è Papa Costantino. Non fino al momento in cui ci sedemmo nell'ufficio della contabilità generale e ci mettemmo a sfogliare lentamente strati su strati di spese da pagare, ma non realmente registrate né dichiarate. Ecco, fu solo in quel momento che ci rendemmo conto di avere un problema molto, molto serio. Tocca a Papa Costantino comunicare la cattiva notizia ai ministri delle finanze dell'Eurozona. Il nostro deficit di quest'anno è destinato a diventare il doppio di quello previsto. Un debito a due cifre, intorno al 12,5%. Mi presentai e fui costretto a dire ai miei colleghi che il nostro deficit era il doppio di quello comunicato dal precedente governo. Era sei volte quello che era stato originariamente pianificato. Mi è stato subito chiaro, dalle reazioni generali, che eravamo entrati in un groviglio indistricabile. Da New York a Londra i trader di bond cominciano a vendere in dumping, cioè a svendere i bond sovrani greci. Le stesse istituzioni che hanno allegramente alimentato gli sperperi del governo greco ora provano a fare marcia indietro. E nel 2009 tutto andò in pezzi. Ci si trovò davanti a una specie di edificio fatiscente costruito nell'arco di decenni. Di fronte alla indisponibilità dei mercati a fornire alla Grecia altro credito a basso costo, il paese deve mettere in atto forti tagli alla spesa pubblica. La popolazione scende in strada per protestare e gli altri paesi europei non hanno soluzioni pronte per affrontare la situazione. All'improvviso si resero conto che la costruzione dell'euro come moneta unica non fosse una costruzione compiuta, perché in mancanza di una politica economica e fiscale realmente unica, la moneta unica non può funzionare. Nel 2010 il valore dell'euro scende precipitosamente. Irlanda, Portogallo e Italia cominciano la loro spirale discendente. E oggi tocca alla Spagna, una forza economica 4 volte e mezzo maggiore di quella greca. Fu subito evidente che la Grecia non era la sola, che anche altri paesi europei avevano gli stessi problemi. E quello che inizialmente era stato percepito come un problema isolato è diventato rapidamente un problema sistemico anche per il resto dell'Eurozona. Il fenomeno potrebbe coinvolgere anche gli Stati Uniti? Certo, assolutamente sì. Le nostre banche potrebbero essere un ottimo canale per qualsiasi brutta sorpresa. Hanno fatto molti prestiti all'Europa e anche molte transazioni con le banche europee. E qui negli Stati Uniti non siamo sufficientemente attrezzati per affrontare difficoltà di questo genere. La crisi del debito e il caos economico potrebbero avere pericolose ripercussioni in tutto il mondo. Se le difficoltà dell'Europa dovessero portare al fallimento di una grossa banca americana, la situazione potrebbe diventare catastrofica. A partire dal 2007 le 5 maggiori banche americane sono diventate sempre più potenti. Attualmente controllano il 56% dell'economia americana. Quale impatto potrebbe avere sugli Stati Uniti un'ipotesi di questo genere? Nel settembre 2011, con il peggioramento della crisi in Europa, il movimento Occupy Wall Street scende in piazza a New York. La prima volta che ho visto una manifestazione di Occupy Wall Street, ero molto scettica. Pensavo che si trattasse di una protesta che si sarebbe esaurita nell'arco di un giorno, come credo che lo pensasse la maggior parte della gente. Ma poi ci fu l'incidente. Tre ragazze vennero bloccate dai poliziotti dentro un recinto di plastica arancione e colpite agli occhi con uno spray al peperoncino. È stato in quel momento che mi sono detta: devo andare con loro, devo partecipare a questa cosa. La gente è scesa in strada per esprimere la sua rabbia. Ma qual è esattamente il messaggio? Cosa vuole questa gente? Il movimento Occupy Wall Street è stato accusato fin dall'inizio di non aver capito come funzionava il sistema. Ma quello che io ho capito è che nessuno sa come funziona il sistema. Nemmeno la gente che lavora nella finanza capisce il sistema. Ognuno di loro conosce solo una piccola parte del sistema. Sono molto poche le persone che possono dire: sono un esperto del sistema finanziario, so come funziona ogni pezzo del suo ingranaggio. Gli occupanti sanno che il risultato di questo sistema non funziona per loro. E questo è già tanto. Il sistema è un'immensa scatola nera e loro stanno vedendo gli effetti di questa scatola nera. Molti di loro hanno un'educazione di livello superiore. Come studenti ricevono molti finanziamenti, ma non hanno un lavoro, e questo è il risultato. Loro e tutta la gente intorno a loro non hanno lavoro, ma hanno molti debiti. E non hanno il potere per confrontarsi con il sistema. Ma io credo che gli occupanti debbano essere apprezzati perché, pur non comprendendo il sistema, hanno deciso di uscire alla scoperta e di gridare che il sistema non funziona. Occupy everything! A Washington si stanno combattendo altre battaglie. Da una parte ci sono le 12 agenzie federali per la tutela dell'interesse pubblico. Dall'altra, la lobby delle banche. Da quando nel 2010 il governo americano ha approvato la legge Dodd-Frank sulla riforma del sistema finanziario, le due parti si trovano ancora in un vicolo cieco, non essendo riuscite a trovare un accordo su quali regole considerare accettabili. L'industria ha sborsato più di 320 milioni di dollari per fare pressioni sui legislatori. Finora il processo di definizione delle regole è stato molto lento. Solo poche regole sono state introdotte. Alla Federal Deposit Insurance Corporation, l'agenzia del governo che tra l'altro tutela i correntisti, i legislatori stanno discutendo di quelle banche troppo grandi per fallire. I due gruppi hanno messo insieme i pesi massimi della finanza, tra cui l'ex amministratore delegato di Citigroup, John Reed, il super avvocato di Wall Street, Rodkin Cohen, l'ex presidente dell'autorità di vigilanza della borsa americana, William Ronaldson, e l'ex capo della Fed, Paul Volcker. Dall'altro lato del tavolo siedono i funzionari dell'FDI, che si occupa degli istituti che effettuano operazioni finanziarie complesse. Il loro obiettivo è la definizione di un piano per affrontare l'eventualità del fallimento di una grande banca. Sono molte le questioni all'ordine del giorno. Come sciogliere i contratti derivati? Come proteggere il denaro dei clienti? Come fare le transazioni? E come evitare la catastrofe? Capisco, ma questo rappresenta un problema per l'intera strategia. Quali effetti devastanti potrebbe avere sul sistema? Non so come andrà a finire. A noi piace pensare che la nostra sia un'epoca unica, dimenticando che negli anni 20 ci furono moltissime innovazioni finanziarie. E quando ci fu il crollo di Wall Street e noi riuscimmo a venirne fuori, facemmo una serie di analisi che portò alle leggi sulla sicurezza. La mia speranza è che impareremo la lezione che ci viene dal 29, perché ci vorrà molto più tempo per imparare quelle del 2007 e 2008. O forse avremo bisogno di un'altra crisi per uscire dalla situazione attuale. Alcuni ritengono che la sola soluzione possibile sia quella di tornare indietro nel tempo. Paul Volcker, l'ex capo del Fed, ha proposto una legge che di fatto riporterebbe in vigore una pietra miliare dell'epoca della depressione, il Glass-Steagall Act, che separa il proprietary trading dalle tradizionali attività bancarie al servizio dei clienti. Sembra che non ci sia nessuna intenzione di affrontare il conflitto di interessi insito nel banking moderno, perché ciò implicherebbe la separazione delle due parti che oggi formano una banca, il proprietary trading e l'attività tradizionale. Ma nessuno sembra avere l'energia né l'interesse di trattare questa questione. A New York, Occupy Wall Street ha creato un suo gruppo di lavoro incaricato di analizzare la proposta di Volcker. A seguito delle forti pressioni esercitate dal settore, il testo della norma è passato da 10 a circa 300 pagine, per l'aggiunta di innumerevoli esenzioni e ambiguità intenzionali finalizzate a diluire il senso della norma. That's what they say about Volcker in any case, but what are they going to say specifically about funds that are not risky? La parte della proposta di Volcker dedicata ai rischi è veramente molto vaga. Io ho lavorato sui rischi e so che su questo punto una banca riuscirebbe a vincere. Conosco la materia. Abbiamo bisogno di esperti, di gente capace di battere il sistema. Abbiamo deciso di rileggere punto per punto il testo della norma per capirne il senso e le finalità e poi studiare cosa fare per aggirarla o, come se lavorassimo ancora a Wall Street, per eluderla. Il gruppo di Occupy Wall Street sottopone la proposta alla SEC, all'FDIC e alla Fed nella speranza che il testo di Volcker venga introdotto. Normalmente i soli che commentino queste norme sono i diretti interessati e si può ben immaginare il tono dei commenti. Questo è troppo repressivo, questo deve essere eliminato, questo rischia di rovinare la nostra attività e non mancherà chi dirà, questo rovinerà l'economia. La cinica che in me direbbe che, anche nel migliore dei casi, se la legge passasse, se alle banche fosse fatto il divieto assoluto di operare il proprietary trading, loro, le banche, troverebbero il modo di fare qualcos'altro. Fanno sempre qualcosa per favorire i loro interessi. Noi non possiamo riformare il sistema bancario, ma dobbiamo interessarci al problema e sperare che nel frattempo il mondo non crolli. La riforma del sistema bancario è stata realizzata dopo la depressione perché c'era la volontà politica di cambiarlo. È stata una questione di volontà politica e lo è tuttora. La domanda non è state facendo qualcosa di perfetto, la domanda è state facendo qualcosa di meglio di quanto non sia adesso. La soglia è piuttosto bassa, quindi penso che sia decisamente raggiungibile. Recentemente il governo americano ha cercato di imporre regole più severe per le banche che vendono più di 100 milioni di dollari di swap l'anno. La lobby delle banche è entrata subito in azione. Risultato? Solo le banche con un trading superiore agli 8 miliardi di dollari saranno soggette a controlli. In questo modo, l'85% delle banche che giocano con derivati di tutti i tipi è rimasto fuori dalla portata dei regolatori. Il prossimo capitolo della crisi globale è ancora da scrivere e dipenderà dalla forza e dalla determinazione che politica e cittadini metteranno nel desiderio di risolvere radicalmente il problema dello strapotere degli istituti finanziari. È un intervento indispensabile per evitare un prossimo futuro, un crack mondiale, le cui conseguenze sono inimmaginabili.